Buonasera a tutti e grazie di essere venuti a questa iniziativa. Eccoci in diretta. I 40 anni dalla cacciata di Lama, penso che il video che abbiamo appena visto è stato abbastanza eloquente rispetto a quello che è successo in quella giornata. Abbiamo intitolato questa iniziativa Giorni che valgono anni, riprendendo un titolo dell'allora rivista Rivolta di classe, che uscì qualche giorno dopo e che titolava in seconda pagina, raccontando quella giornata, l'articolo che appunto ricordava e raccontava la cacciata di Lama del 17 febbraio del 77. L'abbiamo intitolata in questo modo perché è un po' la sintesi di quella che è anche l'iniziativa di oggi. Pensiamo appunto che quella giornata in qualche modo sintetizzasse quello che è il e anche altre date, altre giornate che poi ci furono durante quel favoloso anno che fu il 77, ma pensiamo appunto che giorni che valgono anni, nella misura in cui vanno un po' a sintetizzare un processo che era nato precedentemente e che poi continua anche oltre il 77, un anno in cui poi appunto racconteranno meglio chi i protagonisti di quella giornata e chi mi seguirà negli interventi. Un anno in cui si dimostra un'esplosione di un processo che iniziava sicuramente da prima. Per questo abbiamo deciso di intitolare questa iniziativa Giorni che valgono anni. Sicuramente in quella giornata, una giornata epocale, Si verificò quella famosa rottura con la sinistra storica, che non si è mai ricostituita anche fino ai giorni nostri. Una rottura che in qualche modo dimostra come una generazione era stanca un po' delle false promesse di quelli che allora erano appunto il PC e la CGL, e ha trovato un'esplosione nella giornata del 17 febbraio di 40 anni fa. Pensiamo che questo è ancora un dibattito aperto, un nodo che vorremmo un po' sviscerare anche negli interventi in questa iniziativa. Un altro aspetto pensiamo che debba essere approfondito è quello un po' di una generazione che vorremmo mettere a confronto con quelle nel dibattito che segue con le generazioni di oggi, una generazione formata appunto da una composizione giovanile che costruì quella rottura, e non solo con la sinistra storica, ma mise all'interno del dibattito del movimento 77 e di quello che successe prima e come si sviluppò dopo, qualcosa che era inedito e che pensiamo che a Roma sia un po' la punta avanzata di quel movimento. Per quale motivo? Perché pensiamo che quella generazione, insieme anche al dibattito e ai ragionamenti importanti che portò anche il movimento femminista di quegli anni, provò a diciamo a qualificare una classe che era variegata, nella misura in cui a Roma, nel momento in cui si riuscì da una parte a mettere in mezzo il discorso del lavoro produttivo, ma anche quello riproduttivo, e che riguardava il resto della giornata fuori dal lavoro classicamente inteso. Pensiamo, nel momento in cui parliamo appunto degli alloggi, come le lotte che si facevano sulla casa iniziarono allora a Roma, quando parliamo della teoria edizione delle bollette, quando parliamo dei covi del lavoro nero, quando parliamo dei comitati all'interno dei quartieri, quando parliamo appunto anche della parte creativa di quella giornata, ma anche di quella di quel movimento, parliamo un po' di questo. E pensiamo appunto che la caratteristica del movimento romano è stata quella di essere avanti rispetto alle altre città nel momento in cui si mettevano sul campo anche questo tipo di tematiche e soprattutto questo tipo di lotte, e unire appunto i due versi della fabbrica. Pensiamo che questo sia importante anche per le nuove generazioni, discutere e approfondire anche questo nodo, come nacquero queste rotture, come nacque questo scontro durante quella giornata, e anche appunto le istanze che venivano messe in campo. Pensiamo che poi quello che, come dicevo prima, quegli avanzamenti che ha dimostrato avere il movimento romano andavano un po' a prevedere quello che sarebbe successo negli anni successivi, e pensiamo che un po' questi discorsi si sono acuiti oggi appunto quando abbiamo parlato in questi anni anche dall'università e dalle scuole e non solo, quando parliamo di lavoro gratuito, quando parliamo di alternanza scuola-lavoro, quando parliamo di femminilizzazione del lavoro, un po' andiamo a considerare un discorso che è nato in quegli anni e che si è sicuramente approfondito e acuito oggi. Pensiamo anche che quella forza dirompente e quella potenza che ha dimostrato sia quella generazione e soprattutto quella composizione giovanile, che è rappresentata da molti in questo momento che stanno qui, era potente proprio perché andava a mettere sul piatto un discorso che anche oggi è diventato generalizzato e che riguarda praticamente tutti. Io mi fermo qui con le considerazioni e ho messo un po' dei nodi che volevamo sviscerare in questa giornata. Abbiamo appunto invitato alcuni dei rappresentanti, ma ce ne saranno tanti altri parlare insomma da questi microfoni. Pensiamo insomma che questa inoltre sia una prima giornata, questo è la prima iniziativa che faremo, ne vorremmo fare altri durante il corso di questo anno, perché vorremmo riprendere e ricostruire numerose iniziative rispetto anche alle tappe del 77, e vorremmo anche fare un appello a tutti quelli che stanno qui per fornirci dei materiali, per fornirci anche gli archivi che avete personalmente, che vorremmo rivedere, vorremmo proiettare altri documenti e rileggere quello che è stato prodotto allora e non solo durante il 77, per approfondire e, come si diceva, insomma aprire delle finestre su quegli anni che ci possono servire anche oggi per il ragionamento. Invito appunto gli invitati appunto di questa iniziativa a mantenere insomma i tempi degli interventi, perché siamo tanti e penso che si voglia andare avanti insomma bene con il dibattito, e appunto inizierei con la discussione. Questa voleva essere solo un'introduzione e dare appunto degli spunti e dei nodi che vorremmo si approfondissero oggi qua, ma ovviamente più nodi si mettono sul campo meglio è in questa giornata. E grazie di nuovo per essere venuti, e invito appunto i rappresentanti di quel movimento. Noi abbiamo invitato appunto Daniele Pifano, Vincenzo Migliucci, Giorgio Ferrari, Pablo Ciarle, Antano D'Amico, Graziella Basselli e Bruno Papale, che però non è potuto venire quest'ultimo. a prendere il microfono, insomma, a prendere in considerazione, insomma, l'introduzione che abbiamo fatto, e dopo proviamo a dare vita, insomma, al dibattito e ad altri interventi. Noi saremo qui insieme a Francesco e cercheremo anche di moderare la discussione, perché siamo in tanti e tanti e penso che ci saranno, insomma, tanti interventi, quindi ditemi chi vuole intervenire, cerchiamo di moderare il più possibile la discussione. Grazie a tutti. È azionata la telecamera. Credo che io ce la faccio ancora con la roba. Beh, a quest'ora se ne eravamo andati. Era già pieno di guardie, ma veramente tante, e c'era per la prima volta, almeno non si sente laggiù. Ah, perché e per la prima volta anche un pezzetto di occhi che avevano visto già abbastanza, hanno visto i carri armati, quelli con le sei ruote gommate, quelle che hanno la mitragliatrice sopra. Non si è fatto manca niente così, che ovviamente se l'è sempre rivendicata, ha capito subito o più o meno di che pasta eravamo fatto, quantomeno eravamo fatti di una pasta abbastanza dura, insomma, in qualche misura. Abbiamo, come dire, resistito per quelli che erano gli strumenti iniziali dell'epoca, avete visto, no, i lanci dei San Pietrini fin quando ci sono stati lungo il piazzale interno dell'università, e poi giustamente la critica delle armi era sovarchiana. E quindi abbiamo fatto bene a nassene. You're gonna run. Da viale De Lollis quel giorno. La polizia, i carabinieri, l'università, il 27 di febbraio, alla fine della giornata, c'è di tutti che provengono da tutta Italia, dal profondo sud, da Palermo, da Bari, da Napoli, eccetera, per dire da Bologna, da Firenze, su nel Friuli, insomma, e via di seguito, si noma Movimento 77, senza virgolette, senza niente, eccetera, eccetera. Decide una scadenza nazionale per dire: noi siamo questo movimento, noi siamo portatori di questa novità, siamo portatori di queste esigenze. E quindi la giornata è il 12 marzo a Roma. Sapete cosa è successo? L'11 marzo Cossiga ha continuato a dare l'ordine militare, il carabiniere, che non ha mai pagato pena, prende la mira con il fucile e lo uccide, Francesco Lorusso. Quest'anno a Bologna ci sarà una iniziativa importante, ovviamente quell'11 di marzo. I compagni di Bologna hanno telefonato, sarebbero voluti venire qua, annunciano che stanno ragionando e si può ragionare di fare in quel settembre non il convegno sulla repressione, ma il convegno su quello che è oggi la situazione italiana, in cui sicuramente c'è di mezzo anche la repressione, ma immagino. Interessante quantomeno. Dunque, io vado veloce per seguire quello che le compagne e i compagni di iniziativa, in modo da poter far parlare tanti. A me mi interessa far capire, almeno, questo concetto della nemicità. chi è il nemico. Badate bene, con il Movimento 77. Far capire almeno questo concetto della nemicità. Chi è il nemico? Badate bene, con il Movimento 77, a partire da Lama, l'Italia che protesta, l'Italia che mi, ma che il PC fosse il nemico, non lo sapevo. Le avanguardie l'hanno scoperto, ci mancherebbe. Perché tu che con la raggia qui sono loro. Non è che ha riflettuto e quindi ha detto eccetera eccetera. Ma poi non c'è stato bisogno, è stato un proseguio, ma questo l'hanno capito le avanguardie, che erano avanguardie di massa, ci mancherebbe, perché è arrivato il golpe in Cile, e il golpe in Cile il... non c'è stato completamente è vero, il partito degli AI deve fare l'alleanza con la borghesia, e l'alleanza con la borghesia esige la politica dei sacrifici, esige, però c'è un traccheggiamento in movimenti autonomi, in movimenti antagonisti, in movimenti di vario genere, non è che stanno lì a guardare, si riappropriano ovviamente della ricchezza sociale come possono, affrontano ovviamente la questione del fascismo sorgente, affrontano il problema della strage di Stato, però è il 77 che fa scoprire questo, e il PC ovviamente indica a tutti i movimenti, a tutta la società, che il nemico sta sempre alla sua sinistra, tant'è che arriva a sostenere il giorno che noi facciamo il convegno di Bologna, convegno indicato a partire dai francesi, dai filosofi francesi, che dentro l'Italia c'è una situazione di rottura della democrazia formale, quanto vero, e quindi lì non ci sta, non sostiene ovviamente che ci possa essere una lesione della democrazia, ancora e via. Ma poi succedono altri eventi, altri avvenimenti, sempre in cui la nemicità sta lì, ed è sempre più approfondito tutto questo. Il pericolo che a sinistra ci sia una sovversione sociale, che questa possa inficiare questa subalternità nei confronti della borghesia, è costante. Lo è ovviamente per salti enormi, voglio arrivare a Genova se volete guardarlo, insomma io ricordo benissimo, ero lì, parecchi c'erano, parecchi non c'erano, ma quella sera in cui ammazzano Carlo Giuliani, la CGIL dice a tutta Italia, voi non dovete andare a Genova, leggetele quelle cose lì, e a Genova comunque si presentano 300.000 persone il giorno dopo l'assassinio di Carlo Giuliani. E lì a sproloquiare ancora una volta su chi è il nemico e via di seguito. Ma basta vedere l'andazzo dell'oggi, ovviamente, eccetera, che la riconduzione a povertà diffusa, la precarietà, le leggi su Job Act e quant'altro, oggi quel PC non c'è più ovviamente, eccetera, però quei prodromi stanno lì, dentro quella situazione. Siamo arrivati ovviamente a sostenere costantemente che chi confligge qui a Roma come in giro per l'Italia, e c'è una conflittualità nel movimento di lotta per la casa, e c'è una conflittualità negli ultimi arrivati al conflitto di classe che sono i lavoratori della logistica, e c'è una conflittualità sociale diffusa sui territori, perché ai territori bisogna imporgli Cristo e Domini Dio, parlo dalla Notab fino al Nomuos, ma insomma ce ne sono 100.000, c'è la Monnezza qui alle porte di Roma, ci sta tutto quello che è possibile e immaginabile, e loro sempre lì con il criterio dello sviluppo, del progresso eccetera, a colloquiare complicità con la borghesia. Siamo arrivati ovviamente alle misure oltremodo speciali. Questa nostra generazione, chi vi parla, ha vissuto sempre sulle leggi dell'emergenza, sempre con leggi speciali. Siamo passati ovviamente non solo per i tribunali speciali, per le galere speciali, siamo arrivati a tutto lo scibile che passa dentro il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Siamo arrivati alle proposte di confino che vedono me, Daniele, Graziella, Bruno Papale, i compagni anarchici, insomma, eccetera, eccetera, a quella storia. Ma oggi si ripete. Pensate solo alla vicenda di Luca Faggiano e Paolo Di Vetta, a cui il potere attuale, il governo attuale, prodromo di sinistra, eccetera, ripropone la sorveglianza speciale, l'accentua, quindi ce lo esclude dal contesto. Si usa l'ordine pubblico invece della politica e questo è l'andazzo. Pensate quanta moltiplicazione ci sarà se passa quel decreto, il DASPO sociale. A quel punto tutti i giovani che vanno a fare una scritta perché sono protestatari, eccetera, possono essere non solo presi, multati come succede oggi, eccetera, ma possono essere presi e su ordine del sindaco non te puoi muovere più da casa, non te puoi, o te mandano ovviamente in un'altra situazione. Siamo, come dire, ad un parossismo della violenza poliziesca e borghese che vedrà ancora un maxi di accentuamento in virtù del fatto che la società che ci si annuncia non è solamente quella che sta davanti ai nostri occhi, che è già drammatica e difficile, ma è quella che ci dicono i convegni di Davos, la Confindustria, eccetera, che tra qui e il 2025 e il 2030 in tutti i paesi industrializzati ci saranno 50 milioni di disoccupati, se ne parla 5 milioni in Italia, capite bene, senza nessun ammortizzatore sociale perché quelli sono stati tutti eliminati. Si tratta di capire che cosa siamo in grado di fare riguardo a questa che diventerà la condizione di subalternità oggettiva. Saremo in grado ovviamente di affrontarla e trasformare la nostra disarticolata soggettività, le nostre divisioni in una capacità contraente per poter contrastare il disegno ulteriore del capitalismo qui in Italia, in Europa e nel mondo. Mi sembra che questo è uno degli argomenti importanti. Nel frattempo ovviamente non ci deve mancare la voglia, l'amicizia, l'umanità, la politica di poter sostenere tutti coloro i quali sono colpiti dalla repressione, sia nelle forme del TULPS, sia nelle forme della galera, quelli che sono colpiti dai licenziamenti, quelli che sono colpiti in vario modo dall'esclusione sociale, affinché sappiamo creare un argine chiaro e netto nei confronti di coloro i quali sono chiari e netti dall'altra parte. Noi lo siamo meno, ma cerchiamo di affrontare questo problema nel migliore delle condizioni possibili. Comunicato dello sgombero degli auto. Ok. Lo devo leggere. Lo leggiamo tra un po'? Lo leggere subito, sta a posto. Ma te ne devi andare? No, no, ci sto qui. Facciamo fare gli interventi iniziali e poi li leggiamo, se va bene. Ho finito molto di scrivere, tutte le cose. Io l'intervento volevo fare sulla testimonianza di 40 anni fa. Certo. Chiama a parlare, si sente? Daniele? Io non l'avevo visto ancora sto filmato di coso, di Alfio, e veramente io c'avevo una testa, me l'ero fatto, sai, poi uno i ricordi li moltiplica, li fa, li deforma, ci ricama su, e ci ricama su molto sui cazzo dei ricordi, e praticamente vedere invece come si sono svolti i fatti mi ha riconfermato perfettamente quello che è una convinzione bestiale, cioè se questo pezzo di merda di lama e tutto quanto l'apparato avessero, secondo me, minimamente avuto il coraggio di affrontare in maniera frontale, anche in maniera, diciamo così, provocatoria, però la possibilità di diciamo, permettere agli studenti di esprimersi o comunque di far fare un intervento, far fare tirare fuori, io credo che la cosa sarebbe finita in maniera molto diversa. Ma già si vede che quando, innanzitutto, non c'era nessun fronte, tutti quanti penso che hanno visto i filmati di quegli anni quando si facevano le manifestazioni con gli Stalin, con i passamontagna, non c'è un cazzo là di tutto ciò. C'è sta sta cosa, sto movimento, sto gruppo che oscilla, che poi erano i fuorisede la maggior parte, detto fra di noi, comunque era sto gruppo che oscillava, che faceva sta cosa, che poi avevano impedito di entrare la maggior parte dei casi, perché io appunto personalmente ero stato costretto addirittura a scavalcare il muro. Quindi si vede questo gruppo che oscilla, quelli come Ettore che facevano parte del sindacato della cosa e che erano venuti là per rompere il cazzo, si sono cacati sotto e si sono subito squagliati. Comunque dico, rispetto a questa situazione c'era comunque un dibattito, una cosa, anche con quelli che erano venuti là dentro a discutere sul fatto, sulla presenza di questo sindacalista che riteneva di poter normalizzare richieste degli studenti. Ma io voglio dire questo, ragazzi. Noi siamo vecchi, rincoglioniti e ci si vede, ma voi che siete invece, voi qua purtroppo più del 50% vecchi rincoglioniti, però diciamo, però ipoteticamente, quelli che dovrebbero essere, diciamo, le persone che dovrebbero darci il cambio, e dico, ci sono, dove cazzo sono? Vabbè, insomma, pochi, troppo pochi, e poi sta cosa, a mio parere, meritava le scalinate del rettorato, nel senso che bisogna rifarli cacassotto, nel senso che bisogna attualmente riportare a livello di ordine del giorno la soddisfazione dei bisogni, la creazione di quei momenti di ottenimento di quelli che sono le volontà, i desideri e le ragionevolissime richieste da parte di quelli che sono gli utenti, da parte di quelli che sono il popolo, da parte di quelli che è il proletariato. Io credo, allora, noi in quel periodo facevamo la lotta, c'è Graziella, ogni giorno un corteo dei lavoratori del Policlinico che andava girando dappertutto, eravamo riusciti a far fare una legge, però là c'era in ballo il discorso della salute, delle fabbriche, quindi la medicina preventiva, tutto quello che significava, e per la prima volta abbiamo abolito le camere a pagamento al Policlinico, gli ambulatori, cioè delle cose meravigliose, diciamo, da un punto di vista concreto, però non ci bastava. Non ci bastava perché dovevamo arrivare a un cambio effettivo del funzionamento. Col cazzo ci siamo riusciti. Allora io dico, però ricordate, allora c'era veramente un fronte compatto, micidiale, altro che quelli che venivano coi crisantemi o coi fiori a portare la pace. Quelli erano veramente ben organizzati, militarmente organizzati. Il PC, il sindacato, rappresentava un elemento effettivo di nuova polizia. Ruberti mica ha chiamato la polizia. Come vedete, tutto sto casino, la polizia non è intervenuta, perché Ruberti, allora rettore, si era affidato in pieno alla Camera del Lavoro, si era affidato in pieno alla Federazione del PC per normalizzare gli studenti. Vincenzo mi ha dato l'altro giorno un'intervista che ha fatto Vitraino, il segretario della Camera del Lavoro. Avevano messo in testa i fabbri, li mortacci loro, i fabbri con le tronchesi per tagliare le catene delle facoltà occupate. Ma vi rendete conto che cazzo significava? Il partito che era venuto a dialogare con gli studenti. È veramente fuori dal mondo una cosa simile. Io dico, allora c'era quello, adesso non ci sono scusanti. Fortunatamente questi non contano quasi più un cazzo dal punto di vista di fermare. Adesso potremmo contare molto di più, potreste fare molto di più. Vorremmo vedere queste cose fatte da voi, ma non perché cacciamo, ma perché riusciamo a ottenere, senza tante pippe ideologiche, cosa dobbiamo costruire il partito, no, in maniera concreta, sui territori, sui posti di lavoro, cioè riuscire a mettere insieme queste volontà antagoniste di costruzione alternative concretamente, prima che morimo possibilmente, perché almeno così ce lo godiamo. Giorgio Ferrari. Beh, la sollecitazione di Daniele, bisogna fargli cagare sotto un'altra volta, indubbiamente, tanto per dire che questi incontri possano servire a diciamo rimettere in discussione qualcosa che oggi pesa fortemente su tutti noi, quindi non solo un recupero di memoria e soprattutto tantomeno direi un confronto di generazioni, perché insomma credo che non sia questo lo scopo dell'iniziativa fatta dai compagni, certamente dai compagni e dalle compagne. E questo però significa che magari riusciamo anche a parlarci più frequentemente, non solo in questi passaggi canonici, così, perché oggi sono 40 anni dalla cacciata di Lama, eccetera eccetera, per capire se in questi 40 anni quella rottura simbolicamente espressa in quella giornata, che però, come è stato detto insomma da chi pure è intervenuto prima, è maturata, non è che nasce quel giorno, è maturata prima e è continuata dopo, e per quanto riguarda la sinistra storica non si è mai interrotta, insomma, se dovessimo prendere ad esempio come indicatore del valore della sinistra storica, di quello che ha rappresentato nel 76, il PC raggiunge il massimo delle votazioni, 3 anni dopo le elezioni del 79 perde già il 5-6%, insomma, ed è un calo continuo fino ai disastri dell'oggi, cioè è una sorta di nemesi vedere oggi i resti, cioè gli eredi del Partito Comunista. L'altra sera nella proiezione si è visto D'Alema, segretario nazionale della Federazione Giovanile Comunista, che diceva quello che diceva, invocava la repressione, diceva, insultava ovviamente compagni e compagne, chiamava in causa i volsci, e oggi D'Alema è colpito dalla stessa sua iniziativa, insomma, ha creato un mostro e oggi tenta di disarticolarlo, di sganciarsi da questo mostro, insomma, una sinistra storica inesistente, il che non ci fa, almeno a me personalmente, non è che questo mi rende felice, semmai è un sintomo che in questi 40 anni un pensiero di sinistra è andato ulteriormente peggiorando, logorandosi, insomma, no? Da cui non credo che ci possiamo chiamar fuori tutti quanti, giovani e meno giovani, insomma. Perché in questo frattempo occasioni come questa di discussione, di confronto fra noi più grandi e i più giovani ce ne sono state poche. Perché sono tanti, credo soprattutto per nostra responsabilità, per non esserci né proposti né aver saputo, al di là delle comunicazioni orali che ciascuno di noi può aver avuto episodicamente con compagni di queste generazioni, abbiamo anche scritto poco, se volete, abbiamo lasciato pochi testi, tant'è che, insomma, faccio a titolo d'esempio un'osservazione, nel testo si parla per esempio d'operaio sociale, no? Dice, è finita, era un'epoca in cui il 77, quegli anni, finisce, si esaurisce l'esperienza dell'operaio massa e subentra l'operaio sociale, cosa e lo stesso fecero a modo loro i compagni di Milano con Rosso, che dopo Lama scrissero la piazza statuto dell'operaio sociale, cosa, narrazione questa che evidentemente è rimasta nelle orecchie dei compagni, e non ce n'è un'altra da parte dei compagni romani, da me e da altri compagni, che non era la nostra narrazione, non era il nostro punto di vista, non ci rappresentava né ci rappresenta ovviamente oggi, perché avevamo un altro approccio, un'altra analisi e anche un'altra metodologia di intervento, quindi c'è anche una costruzione teorica, se volete, su quegli anni che è diversa, che non significa la nostra è giusta, l'altra è sbagliata, che non si è messa in discussione, c'è stato diciamo così un recupero di memoria anche attraverso libri, riviste o interventi che hanno riprodotto una sorta, io la chiamo litania, per cui c'è da un lato queste letture diciamo così, della composizione sociale, del conflitto di classe, che si rifanno a una tradizione più che altro operaista, che è andata per la maggiore e che per esempio qui a Roma non è stata per niente maggioritaria, non era così presente, non era affatto nelle nostre intenzioni o anche dei altri compagni che non erano specificatamente autonomi o dei comitati autonomi operai di Via De Volsci. Quindi c'è anche da recuperare una dialettica che si è persa. Perché si è persa? Un motivo, l'ho detto prima, pigrizia nostra, incapacità anche di comunicare, di spiegare, di illustrare. E nello stesso tempo, qui Vincenzo ne ha fatto un cenno, la repressione è calata come una scure su questo, ha tagliato anche la memoria, ha tagliato le compatibilità dialettiche tra le varie formazioni dell'autonomia, e quando dico repressione poi significa anche che c'è stata dall'altra parte, cioè da parte dei movimenti, c'è stata anche decezione e defezione, perché il pentitismo, perché la dissociazione che hanno creato, che hanno delle responsabilità e che questo ha interrotto un dialogo. Riprenderlo a 40 anni di distanza non è affatto facile, ma credo che se non riuscite magari insieme, ovvero se non riusciamo insieme a farlo noi con queste nuove generazioni che non hanno, diciamo, 40 anni sono veramente tanti, quindi non ne senti neanche il peso relativamente vicino degli anni, sono cose molto distanti, ma sono cose nello stesso tempo di estrema attualità. Perché? Perché da un lato vediamo che quello che noi avevamo indicato come elementi critici dell'atteggiamento della sinistra storica oggi stanno tutti in piedi, e il fallimento è chiarissimo, insomma, se vogliamo porlo in questi termini, ma stanno soprattutto in piedi altre questioni che sono state poste in quegli anni, e io direi nell'intero Novecento, che si è cercato di buttare a mare, perché qui dalla fine degli anni 90, soprattutto dall'interno della sinistra, sono venute sollecitazioni continue a buttare a mare l'intero Novecento, il secolo della violenza, il secolo breve, ma che io dico non finisce mai, perché ci ripropone sempre questioni che sono state poste e non risolte: la questione del potere, la questione dello Stato, dell'organizzazione, dei movimenti stessi, come si organizzano, come procedono, su quali gambe, con quali prospettive, con quali necessità, con quali priorità. E parlando di priorità, mi verrebbe da dire, tanto per introdurre subito un tema magari che è all'ordine del giorno, per non parlare del passato ma dell'oggi, il tema a cui andiamo incontro in questo frangente particolare di quest'anno, ma anche nei prossimi, io credo, è che tipo d'Europa ci aspetta. Un'analisi di fase che sfugge in questo momento, che non c'è proprio, che non la vedo neanche fra voi giovani, insomma, per dirla francamente. Non prendetela come una critica, come una riflessione, se dobbiamo cominciare a riflettere insieme, io do subito il mio punto di vista. Mi manca completamente questa capacità di capire, per esempio sull'Europa, tant'è che c'è già l'indicazione di fare una manifestazione il 25 contro il vertice, contro i 60 anni della celebrazione dell'Unione Europea, e quindi fare una manifestazione contro. Io dico, ma siamo sicuri? Cioè, è questo il problema? Oppure dobbiamo pensare che oggi l'Europa, che non ci piace perché è l'Europa dei padroni, dei capitali, della finanza e di quello che volete, sta andando al macero non per movimenti reali, sovversivi, sociali, di sinistra, ma sta andando per distruzioni reciproche che vengono da riprese di nazionalismi, da una destra che è mondialista, antimondialista, sovranista, egoista sicuramente, razzista, e quindi con una prefigurazione per le prossime elezioni che ci saranno, ma per le cose concrete che avvengono tutti i giorni, di una situazione sociale europea, internazionale e nazionale, dove niente affatto prevalgono i movimenti come negli anni 70, niente affatto prevalgono le istanze sociali di liberazione di diritti, di acquisizione di nuove libertà, manco per niente, andiamo sempre più in restrizione. E in questo caso però la contraddizione che dobbiamo affrontare è proprio questa, di ritrovarci in una dea, un'Europa in cui la destra avanzerà sicuramente, che vinca o non vinca è relativo, ma sicuramente avanzerà e avrà sempre più peso, e i residui di centro-sinistra o di sinistra, che ancora si chiamano così, non faranno altro che subire un effetto di trascinamento e sposare a loro volta tematiche di destra, sia sul piano delle libertà civili che sul piano delle rivendicazioni dello status economico, delle condizioni. Allora, come si affronta questa situazione estremamente contraddittoria, che vede addirittura un padrone come Trump proporsi come antimondialista, antiglobalizzatore, che noi viceversa la globalizzazione abbiamo cercato di contrastarla a Genova, dove i movimenti, appunto, bene o male, c'è stato questo recente passato in cui ponevamo la globalizzazione sotto accusa, e oggi un antiglobalizzatore presunto, ovviamente non reale, ma è questo l'inganno che ci si presenta davanti, è uno come Trump, cioè sta riscoperta del protezionismo e del nazionalismo anche in economia. Ecco, è estremamente contraddittoria questa realtà. Ma allora, in questa realtà, come ritroviamo il bandolo della matassa? Rimettiamo, e Daniele ne faceva cenno, rimettiamo prioritariamente i bisogni al primo posto. Dobbiamo trovare delle priorità, dobbiamo ritrovare anche fra noi, giovani e meno giovani, come dicevo, quelle, diciamo, punti centrali in cui fare fronte a questa situazione. Perché io sono convinto di una cosa: questa situazione trascinata, in cui la destra avrà questa preponderanza, una destra sociale, non pensate esclusivamente alle sigle, ai partiti necessariamente, ma una destra sociale che si afferma in tutti i sensi, non risolverà niente evidentemente, perché parte da falsi presupposti e darà degli obiettivi altrettanto falsi, perché non si risolve niente col nazionalismo né col protezionismo in questa situazione di capitalismo globalizzato al massimo. E dopo che ci sarà, e dopo significa badare bene pochi anni, perché questa situazione altrettanto si brucerà rapidamente, allora dopo ci potrebbe essere veramente il caos, cioè ci potrebbe essere quella barbarie che Rosa Luxemburg diceva, e qui si porrà di nuovo questo interrogativo: socialismo o barbarie, ovviamente nei tempi attuali e non con quelli di 100 anni fa. E allora che farà la sinistra, se esisterà ancora? Che faremo soprattutto noi? Perché io me lo sento questo problema addosso, perché non posso aspettare la sinistra, insomma, che non c'è, e che quella che c'è è indecorosa in tutti i sensi e inaffidabile, ma me lo sento come priorità mia, e penso e spero che sia così per tutti quanti voi, perché quello che decidiamo oggi varrà anche per sostenere questo impatto con questa avanzata della destra, con queste politiche di destra, sia sul piano sociale sia sul piano dei diritti. E questo mi piacerebbe, come dicevo, insomma, l'ho citato come esempio, evidentemente non è solo questo, ma farne già uno degli elementi di confronto reciproco. Graziella. Io potrei parlare pure senza microfono. Per la radio. Ah. Vabbè, allaviamo sto microfono. Allora, è un periodo, no? Naturalmente 40 anni, quindi ci hanno e ci chiameranno, no? Vedo Tano, tutti quelli che naturalmente dovranno far memoria. Ed è bello però oggi, quando mi hanno detto dobbiamo parlare appunto della cacciata dell'ama, perché veramente per noi del Policlinico è stata una giornata veramente divertente, è stata una giornata esplosiva, è stata una giornata che ci siamo vissuti con una continuità e con una voglia che penso che ci sono un po' di nostri lavoratori pensionati, fortunati, che bea di loro ci sono riusciti ad andarci, che effettivamente non potrebbero ricordare quella giornata, però permettendoci di fare un minimo di storia di quella che era stata la lotta nostra del Policlinico, perché era precedente il discorso dell'attacco della CGIL, del ruolo del PC che ci ha fatto il libro bianco, delle galere che ci siamo beccati perché facevamo l'occupazione per asilo nido con i ragazzini e con le mamme, perché chiudevamo i cancelli contro i signor baroni che logicamente continuavano nel privato a giocare sulla pelle della gente, che ci stavano ancora le famose mutue, che poi rispetto a quello che c'è sta oggi, dicevamo l'altra volta, erano pure meglio, però oggettivamente non le combattevamo perché non era giusto che chi poteva avere un tipo di garanzia, un tipo di visita, quell'altro invece era morto di fame, la gente veniva alle 4 di mattina a prendere i numeretti per fare le visite e ne facevamo ambulatori gratis, entravamo noi come studenti, lavoratori eccetera eccetera e incominciavamo naturalmente a farci fare le visite e a non pagare. Era come poi il discorso che ci propagandavamo e ci portavamo dietro, non solo dentro l'ospedale, con le spese appunto dentro i supermercati, con quella che era anche una capacità di continuità di risposta dei bisogni, che non erano però soltanto il bisogno di mangiare, perché anche questo bisogna interromperlo, l'abbiamo interrotto allora, lo dobbiamo interrompere anche adesso, e che non è certo il bisogno del lavoro, è il bisogno naturalmente che ci deve veramente dare la possibilità di vivere e di conquistarsi un modo diverso anche di misurarsi con tutto quello che potevano essere i presupposti di vita, che quindi coinvolgevano complessivamente tutto. Ce lo ponevamo allora, ce lo continuiamo a porre oggi e le generazioni che verranno se lo continueranno a porre. Non è che potevamo dire avevamo risolto, perché tutto quello che poi era stato anche conquistato e risolto è stato naturalmente abbondantemente rosicchiato sotto i piedi, ma non soltanto per un discorso repressivo secondo me, ma anche perché l'ingenuità del non controllo, del dare per scontato, che forse è quello che ha permesso fondamentalmente di ripigliare certi spazi che uno non avrebbe mai potuto immaginare, che chiaramente si tornava indietro. Noi negli anni 70 facevamo la lotta contro i cambi, che erano i poracci che venivano tutti i giorni al Policlinico senza nessuna garanzia di poter lavorare quel giorno stesso, venivano presi se serviva e c'era un voto. Di solito c'erano ancora le monache dentro i nostri reparti, quindi se arrivavi con la caciotta o con le ova sicuramente c'avevi qualche garanzia in più. Beh, oggi chiaramente, e noi poi lì siamo riusciti a far assumere tutti, siamo riusciti a fare la lotta per la regionalizzazione eccetera, ma quello che succede oggi con i voucher e con tutte le altre monnezze che ci stanno nelle 10.000 forme di lavoro e di ricatto, con tutte le esternalizzazioni, col fatto che dentro il Policlinico il 70% sono ditte cooperative, ormai dei cosiddetti storici dipendenti ne è rimasto almeno meno del 30%, ma che ci volemo dire? Bisogna sicuramente ripigliare con quello che era il ritmo e la forza e la capacità di trasformazione, ma di un cambiamento profondo, che non può essere naturalmente mettemose d'accordo, vediamo che succede. E questa è stata l'esperienza che io mi riporto e racconto come memoria, ma che continuo a fare pure oggi, perché da una parte è cambiato tutto. Sono cambiata io grazie al piffero, ma fondamentalmente è cambiata la situazione che ci troviamo di fronte, ma non può cambiare questa voglia di trasformazione complessiva che chiama tutti e tutte a fare naturalmente un tipo di soggettività politica, di non delega, perché era questo che faceva impazzire quelli del PC e della CGIL, almeno negli anni 70, che noi non vivavamo la paura che veniva il capo storico, che improvvisamente dovevamo silenziosamente guardare all'illuminazione, naturalmente rinunciando e perdendo quelle che erano invece le capacità acquisite, la voglia di contare, la voglia e le possibilità di scelta. Era questo che faceva impazzire questa realtà, perché poi tu politicamente producevi lotte, producevi iniziative, producevi possibilità di partecipazione in cui ognuno si sentiva parte attiva di quello che faceva. Noi abbiamo fatto per 6 mesi assemblea permanente dentro il nostro ospedale e la CGIL non si è mai permessa di farsi vedere, perché non era possibile che l'assemblea dei lavoratori del Policlinico si potesse sottomettere a qualsiasi bandierina, a qualsiasi strutturazione che non fosse quella della decisione in assemblea. Era questo vivere in prima persona che ha fatto crescere un po' tutti. Noi eravamo casomai già compagne, c'erano molte lavoratrici anziane che si sono messe in discussione anche nelle famiglie, nella coppia, nel ruolo naturalmente di donne e di uomini. Era una capacità di messa in discussione complessiva che nessuno può rinunciare, ma che è quella che io mi continuo a vivere oggi, quando faccio il corteo della marea del 26 e naturalmente me la vivo come donna principalmente, come voglia di complessività all'interno di questa veramente trasformazione, che secondo me non è questione di credeci o non credeci, ancora sei boccona dopo tutti questi anni, ma passa sta clava sicuramente, però se non ci fosse questa possibilità di credere, di puntare alto, di sapere naturalmente anche aver voglia di dire che non è possibile che ci sia una forma di piattume e di ricatto per cui tutto quello che ci viene imposto diventa automaticamente un qualcosa che non si può trasformare, perché la nostra voglia di cambiamento non è una questione d'età o di genere o di sesso, ma è una questione di vita. Ma se può campare, a me finché non mi mandano via al Policlinico casino io devo fare, ma non per una questione di principio, ma perché oggettivamente posso stare dentro un posto di lavoro e vedere che manca la qualità, che non c'è salute, che ci sono un anno di attesa per fare una visita. Questi sono tutti dati che chiunque ci sta dentro un posto di lavoro, quei fortunati che ancora ci stanno perché la maggioranza manco ci sta di voi, però deve naturalmente diventare una forma di rottura e veramente di definizione di qualcosa di diverso, ma non perché famo memoria, ma perché dobbiamo fare concretezza in realtà, perché quello che è vissuto prima si trasforma per diventare energia nel presente e per poterci permettere pure di rivolgersi con un sogno, ma anche con una concretezza rispetto a delle prospettive future. E continuo a dire, io penso che quello che sta succedendo nel non una di meno e nel movimento delle donne, io muoio a tutte le cose che vado e racconto, continuo a parlarne con occhi belli, perché penso che sia fondamentale ricordare che lo sciopero dell'8 marzo non è una questione separatista che ci dovevamo fare noi donne, tanto per essere chiari, ma è una messa in discussione di quelli che sono state anche delle forme di memoria tradizionali e classiche che hanno visto dividere, come ci si divideva fra partitini, fra sindacatini, eccetera, eccetera, anche il discorso di quella che era l'identità sessuale come un qualcosa che ognuno si doveva portare e lotte per conto proprio avanti, no, manco per niente. Oggi, come donne dimo a tutti gli uomini, visto che la violenza non ce la famo da sole, perché insomma mo mettemosi in discussione fra un po' sole donne che si violentano, gli uomini sono tutti buoni, ma dove cazzo stanno, quanto te amo. Allora signori belli, se non ci si mette in discussione su questo argomento complessivamente, la trasformazione c'è posta. La discussione deve essere su 360 gradi, anzi 492, no? Tanto per allargarci un pochetto. E dobbiamo però essere in grado di prendere in prima persona e non fa memoria, perché se no non ci serve, è un piffero fa memoria, se non diventa energia e concretezza. Ci vediamo in piazza l'8. Bene, sì. Sì, questo era uno, degli spunti che avevamo dato nell'introduzione. Esatto, va bene uguale, a voglia. Adesso Pablo e Carlo, perché devono andare via. E dopo si prepara Tano. Che ci faccio io qui? Ma che ci facevo 40 anni fa? Ancora me lo chiedo. Allora Carlo poi parlerà, perché Carlo invece c'era, è di quelli che hanno costruito la scaletta, il fantoccio, eccetera. Ma che ci faccio, perché allora quando sentivamo parlare di temi così ampi e come dire totalizzanti, la rivoluzione, il proletariato, eccetera, eccetera, noi abitualmente rispondevamo, dicevamo a chi affrontava questi temi, parla di te stesso. Quello che noi abbiamo cercato di fare è una cosa quasi pazzesca, cioè incomprensibile oggi. Noi abbiamo cercato di inserire nella realtà, quella stessa che abbiamo visto oggi, un linguaggio diverso. Abbiamo cercato, credevamo, e per una frazione ci siamo riusciti, di introdurre i sistemi di comunicazione delle avanguardie storiche artistiche, parliamo di dadaismo, surrealismo, futurismo addirittura, all'interno di un movimento reale. Credevamo che fosse giunta l'occasione, il momento di distruggere l'artista professionista e di creare un'avanguardia di massa. Per un momento questo è avvenuto. Noi siamo stati in qualche modo, noi dico già una parola grossa, diciamo indiani metropolitani, l'analogo di quello del punk inglese o del punk americano. Cosa era successo col punk? Che i ragazzi che erano partiti negli anni 60 a suonare musica semplice, basso, chitarra e batteria, questi stessi ragazzi si erano trovati scavalcati dalle grandi organizzazioni, come potevano essere i Pink Floyd, quindi gruppi estremamente articolati che usavano e suonavano una musica quasi sinfonica, per cui i ragazzi si sentivano espropriati della loro musica originaria, non potevano più riprodurla nelle loro cantine, nei loro garage, e a un certo punto quegli stessi ragazzi si sono incazzati e hanno detto: ma noi ce la facciamo da noi la musica. Hanno, diciamo, rifiutato l'egemonia di quello che all'epoca si chiamava il rock progressivo, e hanno cominciato a fare una loro musica anche senza saperla suonare, basso, chitarra e batteria, come viene viene. E questa realtà creativa, indiani metropolitani per generalizzare, diciamo, è il risultato di una generazione che aveva vissuto per un tot numero di anni sotto l'egemonia di gruppi che i ragazzi oggi non si possono neanche immaginare, organizzati, Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia e tanti altri, la Lega dei Marxisti Leninisti, eccetera eccetera, i quali avevano in qualche modo dato la linea sempre, addirittura su cosa si legge, cosa si guarda, cosa si ascolta, come ci si comporta nella vita. E questo sembra incredibile oggi dirsi. Ebbene, quei ragazzi a un certo punto non ne hanno potuto più, sono saltate tutte le categorie, a quel dogma che li aveva in qualche modo dominati per quasi un decennio, reagiscono con un magma. In quel magma noi crediamo che è possibile inventare e realizzare un nuovo linguaggio. Quel giorno l'avete visto nel video, perché è chiarissimo. Noi, che ancora non eravamo indiani metropolitani, si chiamava Commissione Marginati, dentro l'occupazione, ma, e c'è, ha un senso sottile, proprio oggi, cioè, c'era Beccofino, che era il nostro portavoce, perché era il punching ball, quello che prendeva le botte, cioè perché non cedevate mai retta. Ma la cosa che è emblematica, ma è veramente emblematica ed è agli atti, Pifano l'ha anche riconosciuto, non ci si poteva schierare militarmente, perché sennò era un massacro. Si è scelto il buonsenso dentro il movimento che occupava, che ancora non ha manco movimento del 77, che la definizione, Migliucci l'ha detto, arriva dopo. Quindi questa sorta di magma, di generazione occupante di quello spazio, che percepiva che il mondo, ed evoco il punk, che non c'era futuro, proletariato giovanile, cognitariato, ok, si intuisce quella notte che per contrastare questa cazzata suicida per il Partito Comunista, perché si sono sputtanati epocalmente, anche se poi ci hanno sconfitto in decine di migliaia di modi diversi, è stata esercitata la pratica del linguaggio creativo, l'abbiamo presi per il culo. Il fatto è che noi, che abbiamo fatto da cuscinetto, siamo stati i primi a prendere le botte. Cioè questo è il vero problema nostro, che Commissione Marginati, componente di femministe, c'erano gli omosessuali, ma i marginati rispetto ad una politica, compresa dei gruppi, l'autonomia operaia, che non volevamo più, e noi eravamo clamorosamente la maggioranza. Gran parte di quelli di noi erano i cani sciolti, quelli che non si erano rotti le palle di Avanguardia Operaia, del Manifesto. C'era gente come me che già 3 anni prima era stato dentro l'ospedale psichiatrico di Trieste con Basaglia, non da matto, sia chiaro, ok? Facendo l'agitprop, facendo quello che abbiamo fatto. Ecco, rendersi conto che la politica aveva bisogno di poetica. E questo secondo me è un elemento interessante che riguarda fondamentalmente oggi, non so quale sia la via di uscita. So solo che la resistenza non paga. La parola che va esercitata, su quale sto lavorando da anni, è la resilienza, che non significa adattarsi, che non significa abbozzare, significa studiare le tante forme possibili per fare la mossa del cavallo, spiazzare. Tano D'Amico. Beh, io sono commosso, ringrazio tutti per l'applauso. Partiamo dal giorno di Lama, che i miei compagni benissimo hanno raccontato i fatti, quello che è successo, questa cosa qui è vero, ma perché? Qual era il motivo del contendere? Perché c'è stato questo scontro epocale per tutti, no? Vediamo che su tutti i giornali si parla, si commemora. Perché? Qual era il motivo del contendere? Perché ce l'avevano con noi? Perché noi eravamo tutti quanti insieme? In questo Graziella è stata brava a raccontare quello che ci legava. Cos'è che ci legava? Un progetto, una dottrina, un Vangelo scritto dai padri del comunismo? No, ci legava un profondo affetto. Ma perché? Qual era, appunto, torniamo, il motivo del contendere? Perché migliaia erano di qua e migliaia erano di là. Qual era? Appunto, per cosa? Per cosa? Ecco, quello che si voleva cancellare, e si voleva cancellare anche nella stampa, nelle televisioni, nelle radio, era la nostra autonomia culturale. Quello che faceva rabbia a tutti, e Graziella lo ha anche detto, era che pensavamo con la nostra testa, che guardavamo con i nostri occhi, che avevamo delle categorie affettive che ci legavano tutti. Perché io andavo agli appuntamenti di Daniele, dove andava lui, Graziella, oppure agli altri? Perché? Perché i giornali che mi pagavano un tanto a foto forse mi mandavano là? No, anzi, i giornali che mi pagavano un tanto a foto non volevano quelle foto, volevano ignorare quegli avvenimenti. E ricordo degli avvenimenti che non avrei mai visto, mai affrontato. Sei stato legato da amicizia, affetto dalle persone coinvolte lì. Ricordo una delle prime volte in cui c'era un appuntamento volante per le 5 di mattina, dove lavoravano Daniele, Graziella e tantissimi altri. E io mi trovai, che mi capitava spesso, davanti ad avvenimenti per cui non ero, era chiaro, ero molto legato affettivamente alle persone, quindi non è che scappavo, che me ne andavo, ma rimanevo là come un cretino. Infatti, una volta che sono capitate delle cose un po' terribili, scorse il sangue, subito il sangue, e legarono molte persone con cui ero legato affettivamente, come dico, e le legarono picchiate a una lunghissima catena e le portavano via. L'ultima era Graziella, che proprio sillabando muto come a scuola mi chiede: hai fatto le foto? Mi ero dimenticato di fare le foto. E io ricordo che feci la foto a loro che venivano portati via, coperti di sangue, e fu la prima pagina di un grande giornale dell'epoca. Ecco, ma come dire, cos'è che ci legava? Non era il lavoro, non era la... era un profondo affetto. Che cos'è che ci divideva da tutti quanti gli altri, dai giornali, da tutti, che ci volevano morti tutti? Perché? Per la nostra autonomia culturale, ripeto, che tradotto vuol dire che si vede con i nostri occhi, che pensiamo con la nostra testa, e questo è un pericolo per tutti, era un pericolo per tutti. Autonomia culturale, che ci chiamavano autonomi gli altri, poi l'abbiamo fatto nostro, ma perché? Perché pensavamo indipendentemente dai partiti, dai sindacati, pensavamo che si dovesse ricominciare da capo per costruire, ecco ora delle parole solenni, un altro mondo. Ecco, quello che ci legava era che ci stava stretto il mondo, e per questo si arrivava a questi scontri, che non è l'ultimo, non è l'unico, quello del giorno di Lama. E per questo vorrei dire, era questo che si voleva togliere di mezzo, era questo. C'è due modi di pensare, di guardare il mondo, la vita, eccetera. C'è due modi. Uno è quello dell'obbedienza, quello dei partiti, degli eserciti, dei sindacati, che si basano sulla gerarchia, sull'obbedienza. Anche le guerre vanno ad obbedienza. E l'altro è un altro, che è abborrito da tutti, è sempre stato abborrito. Giorgio ha parlato del Novecento, che è stato il nostro secolo, e quello che è capitato a noi è capitato prima, è capitato nella Repubblica di Weimar ancora prima, è capitato nella Spagna del 37, nella Barcellona nel maggio del 37, e l'altro, il nostro modo, che cos'era il nostro modo? Non era una gerarchia, era una cultura di movimento. Che differenza c'è tra una cultura di partito, cioè tra un modo di vedere di partito e un modo di vedere di movimento? Vuol dire che il movimento non è legato da gerarchia, sono tantissime persone, in quel caso maschi e femmine, che percepiscono che debbono fare un cammino comune, perché hanno delle aspirazioni, delle istanze, delle domande comuni, però percepiscono anche che c'è sempre un momento nel corso della giornata, nel corso del cammino, in cui ognuno è chiamato a fare lui singolarmente un pezzo di quel cammino, e se non lo fa, se non viene fatto, è una perdita per tutti. Allora noi ci volevamo bene per la nostra particolarità, perché eravamo diversi l'uno dall'altro, e con la nostra diversità componevamo un cammino comune, e questo era, che si percepiva che dovevamo essere puntuali ai picchetti la mattina, che dovevamo esserci. Non è che ce lo diceva il medico, oppure che c'era la maestra che ci metteva assente, perché se non eravamo quel pezzettino lì, noi con la nostra diversità, con la singolarità, con quello che distingueva ognuno di noi, quel cammino non l'avremmo fatto, non l'avrebbero fatto tutti. C'era un momento in cui uno camminava per tutti e toccava a ognuno. Beh, questo, grazie, grazie per la sua. Ringraziamo tanto Tano e ringraziamo tanto tutti i partecipanti che ci hanno reso possibile fare questa bella giornata di ricordo, di ricontestualizzazione di una giornata importante che è stata il 17 febbraio del 77. Si sente? Quando fra compagni e compagni ci siamo messi intorno a un tavolo per iniziare a immaginare questa giornata e questo percorso abbiamo intenzione di portare avanti, qui ricordo l'appello a tutti i compagni che possiedono materiale di condividerlo, di rendere possibile storicizzare un periodo di cui purtroppo si è scritto incredibilmente poco. Quando ci siamo messi attorno a questo tavolo, la prima problematica che ci siamo posti era quella di come facciamo a non scadere nella nostalgia, perché personalmente, da persona che studia storia, quando si parla di cacciata di lama rientra nell'alveo di date fondamentali da ricordare a memoria: rivoluzione francese, rivoluzione russa e cacciata di lama. Quindi, no, sul serio. E ci siamo trovati a ritrovare rendere fondamentale l'importanza di ricontestualizzare quella giornata e quell'anno, di quei giorni che valgono anni, come abbiamo intitolato questa iniziativa. L'altro giorno, un paio di mercoledì fa, che mi trovavo nella trasmissione radio, stavo facendo le prime interviste di lancio per questa iniziativa, mi sono trovato a porre una domanda a un compagno su quanto si notava e quanto era definibile la differenza fra la componente militante e la componente universitaria, che per noi comunque è una domanda che ci portiamo avanti tutti i giorni: come toglierci i panni dei militanti, come farci riconoscere dalla componente studentesca come loro simili e non come loro contrapposti. E quella, la risposta che mi diede, ora non mi ricordo chi, fu molto emblematica, che è una domanda che non semplicemente ai tempi non ci si poneva. Cioè, non esistevano i militanti dentro l'università, non esisteva lo studente, quello che noi chiamiamo studente X, non esisteva questa differenziazione. E questo è un passaggio importante su come noi effettivamente viviamo l'università, come io da militante politico entro l'università e noi come tutti i nostri collettivi che frequentano queste facoltà, sempre più vuote, sempre più silenziose, e su come effettivamente la controparte ha trasformato in questi anni gli atenei, le facoltà e il modello di condivisione culturale che si ha all'interno della Sapienza in primis, perché qua parliamo. Noi usiamo le parole d'ordine come università, come semificio, l'industrializzazione dell'università, per esempio l'introduzione del 3+2, uno studente che entra fra questi ideali che hanno rappresentato e dimostrato conflittualità e condivisione culturale, come tanti dicevano prima, entrano in questi ideali con l'ottica esclusivamente di produrre esami e laurearsi il meno tempo possibile. Uno studente che in questo modo si astrae totalmente da un'ambizione di condivisione, di collettività e di contestualizzazione del sapere che è sempre più sputato in faccia allo studente, non è più regalato, non è condiviso, e lo studente si trova come singolo individuo, come antropo sociale totalmente distaccato da qualsiasi altro, competitivo al massimo, che necessita di quel per esempio l'introduzione del 3+2, no? Abbiamo due lauree da ottenere nel meno tempo possibile e abbiamo necessitato di questa rapidità eccessiva e destabilizzante per certi aspetti, quasi la vergogna dell'essere fuori corso, il disonore dell'aumento della tassazione sul fuori corso, proprio l'astrazione sociale, per esempio il necessario ritardo che può essere dato dalle condizioni di lavoro di uno studente. E su queste trasformazioni che l'università ha subito, che noi siamo tutti i giorni obbligati a prenderne atto, possiamo fare ad esempio la questione dei fuori sede, come qualcuno ricordava prima, è stata una componente fondamentale di tantissime altre vertenze e altri momenti di lotta. Il fuori sede che, data anche noi a Roma, vediamo per esempio un aumento dei fuori sede negli ultimi anni, relativo a una continua diminuzione del numero di iscritti all'università, che dovrebbe rendere, come è effettivamente l'elemento degli studenti fuori sede, un elemento fondamentale al nostro agire politico. Purtroppo il fuorisede subisce fortissimo la difficoltà di intromettersi nell'ambiente culturale e universitario romano in primis, ad esempio attraverso la struttura dei lager che stanno facendo, che ora chiamano case dello studente, che sono arrivati a costruirli sui terreni di Caltagirone a Ponte di Nona o a spazi che serve il badge per entrare, che non esistono luoghi comuni, non esistono sali comuni, che entri col tesserino e vai a casa a dormire o a studiare. Il fuorisede così si astrae dalla componente universitaria e viene totalmente escluso da qualsiasi processo che si può politicizzare. Tutto ciò ci porta comunque a vedere uno studente che, come ho detto prima, si individualizza e non si rende componente. È sempre più difficile immaginare e tematizzare quella che è la composizione studentesca. Una composizione che forse non è neanche essa conscia di essere tale, di essere un elemento che storicamente, e non soltanto nel 77, ma in qualsiasi fase storica abbiamo, sono i racconti di Hegel, che il primo giorno che viene assunto all'Università di Berlino trova una contestazione universitaria, per esempio. Quindi passano i secoli, neanche i decenni, neanche 40 anni, e l'università è sempre stato un elemento di fibrillazione di tematiche e di istanze politiche. Oggi non è così, e è difficile comunque rielaborare questa composizione politica all'interno degli studenti, è molto complicato. Sempre per non cadere nella nostalgia, mi trovo, diciamo, piacevolmente stupito a evidenziare a tutte le persone qui presenti una situazione molto positiva che sta creando a Bologna, per esempio, in cui una forma di ricomposizione, anche contrapposta a quella famosa controparte che si sta sparando a vista contro qualsiasi elemento, che è quella di Bologna. Bologna che abbiamo visto, partendo dal riconoscimento di un bisogno, che è quella dell'aggregazione, che è quella dell'inclusività, che è la battaglia contro l'università vista come esclusione, l'università vista come allontanamento del disagio, del cosiddetto degrado, dell'apoteosi del decoro. I compagni a Bologna si sono proprio schierati anche frontalmente, anche fisicamente, contro questi tornelli che andavano a rappresentare l'esclusione entro l'università, e questo è stato riconoscente di un bisogno che è servita a una ricomposizione, è servita a un riconoscimento dell'entità universitaria partendo da quel bisogno. Io vi ringrazio ancora una volta, e qua l'iniziativa l'abbiamo chiamata Giorni che valgono anni, e di anni ne sono passati 40, che qualcuno come diceva prima possono sembrare tanti, ma forse così tanti non ne sono. Sarà un'altra. Sono sempre di più, per certi aspetti sono sempre di più. Invitiamo al dibattito, e per concludere, sempre per questo timore di non cadere nella nostalgia, concludo soltanto con una citazione di un gran mostro sacro del cantautore italiano, che diceva con un piede nel passato e con lo sguardo dritto aperto verso il futuro. Questo, oltre ad essere un verso, dovrebbe essere l'indicazione politica che dovremmo avere. Ringrazio tutti. Apriamo il dibattito, chiunque vuole intervenire si viene a segnare qua da noi, che segniamo gli interventi. Il primo intervento segnato, per ora l'unico, quindi se ci sono interventi ti faccio dire, è Peppe De Castelli. Grazie a tutti. Sì, speriamo di non interrompere questo clima idilliaco. Uno dei pochissimi studenti nei comitati autonomi operai nel lontano anno di cui si ricorda. Lasciai l'intervento all'università nel 74, però nel 77 sono tornato. E abbiamo fatto una serie di cose in quel periodo, dopo il 68, eccetera, eccetera. Eravamo una specie diversa, insomma, no? C'avevamo quattro zampe, tre corna, eccetera. Nel senso che le iniziative di lotta all'interno delle facoltà erano congrue, eredi delle lotte per il voto unico, eccetera, eccetera. Si pensava a recepire quelle che erano le contraddizioni di classe all'interno della scuola e dell'università. Può darsi che questo tipo di contraddizioni non ce ne siano più, o anche possibile. altrimenti si tratta semplicemente di scovarle e praticare quanto è necessario. Quello che è vero è che all'interno dell'università probabilmente si è patita una delle sconfitte più verticali, più radicali, insomma, rispetto alla conflittualità di quei tempi. Anche se ai Formal Fatti è stato l'innesco, appunto, uno degli inneschi del famoso 77. Poi dopo c'è stato tutto quanto un rovescio seguente all'altro, appunto, ricordati i due livelli di laurea, una situazione che per quanto riguarda gli sbocchi professionali stiamo ancora al Medioevo, all'epoca si facevano serie lotte contro il baronato, insomma mi pare che oggi stiamo ancora in una situazione di ampia ricerca dell'elemosina, del favore, del semiprofessore, di chi comunque c'è sta dentro il sistema dell'università e della ricerca. Questo per dire, e non credo che ci siano così difficoltà assolutamente insuperabili. Si tratta di rimpiantare il lavoro, si tratta di rimpiantare il lavoro di massa, e questo vale per l'università e vale per il resto. Per cui magari noi siamo portati a fare degli eccessi retorici, no? Sentivo Graziella prima che mi diceva era meglio il tempo dei mutui piuttosto quello del sistema sanitario nazionale. Francamente questa cosa mi stupisce uno poco, insomma, no? A me risulta che una serie di risposte al grande movimento di lotta del 77 sono state proprio una serie di provvedimenti di riforma, che sono state appunto quelle di un certo tipo, dal sistema sanitario nazionale, che in teoria, insomma, all'epoca doveva garantire l'accesso universale ai servizi sanitari, e poi con tutto quello che è accaduto, bene, sappiamo bene, ma appunto la 180, 194, 285 con la quale si va in pensione oggi, eccetera eccetera, tutte risposte da parte del sistema politico dominante, che ci ha avuto bisogno di queste cose. Da qui anche il senso e l'importanza di questo tipo di movimenti, che appunto l'AMA, insomma, dico, che fa folklore, chiaramente dico è un passaggio, dico un'ovvietà, insomma, no? Che sostanzialmente appunto non raccoglie, cioè, il fatto che in quel momento si focalizza la nemicità, la nostra nemicità nei confronti delle organizzazioni revisioniste, all'epoca appunto si chiamavano organizzazioni revisioniste, risiede nella notte dei tempi, insomma, no? Sta nel fatto banale che ci stanno aspirazioni a trasformazioni radicali, e ci sta chi gestisce materialmente evidentemente l'esistente, e da qui, insomma, 68 o prima, fate voi, insomma, volendo, faremo in altri momenti una ricerca storica su questa cosa. Secondo me si tratta di capire se le differenze ovvie che ci stanno fra 77 e oggi sono differenze insuperabili, raccontando un po' oppure qualche cosina in più. Perché non è che noi nel 77 abbiamo fatto i conti solo con l'AMA o col servizio d'ordine del PC o del sindacato, insomma, poi non è che lo devo dire io, insomma, no, dei compagni del Policlinico è stato detto un miliardo di volte, e cariche dentro l'ospedale nascondesi sotto i tetti e sotto i letti, è uscita gli abbaini, eccetera eccetera, dentro l'ospedale e così via, i servizi d'ordine di tutti i tipi, degli edili, dei metalmeccanici, eccetera eccetera eccetera, ma sono tutte legnate che so che hanno come si dice, costruito, lastricato tutti gli anni 70. Bene, ma c'erano pure altre cose. 77 è stato pure uno scontro tra di noi permanente. Ci stavano i poeti, però gestendo ormai da 20 anni una libreria, insomma, no, che si avvia a chiudere, però ho imparato a concepire la poesia come uno degli aspetti della letteratura più difficili. Quindi facilmente uno scrive così e scrive pure cazzate. Però è vero che ci sono stati i poeti, ci sono stati gli artisti, e ciascuno è il suo. Va bene, dico, questo era uno degli aspetti, insomma, di questa storia. Però dicevo, quando appunto noi diciamo quelle cose lì, quando diciamo le differenze, dicevo, no? Allora, ci sta questo scontro politico interno che c'è stato, no? Con gli 11, i famosi 11, chi erano gli 11? Oh, Mordenti, professore che sta andando in pensione, ha dato in pensione Mordenti, ci sta? No, benissimo, Mordenti, Bernocchi ci è andato in pensione. Ci è andato in pensione a Bernocchi, sì. Beccofino sta ancora sott'acqua a gorgogliare, e altri, cioè il giornalista, quello del tipografo del Giornale d'Italia, l'altro coso, il pelato qui di statistica, d'Arcangelo, vabbè, che volete fare? Eravamo tutti giovani, forti, io ero più alto di 10 centimetri, c'avevo pure i capelli. Bene, questo scontro, insomma, no, che è stato permanente, però appunto oggi i compagni mi possono dire, vabbè, ci abbiamo avuto un grande affetto, siamo ancora molto affettuosi tra di noi, ho capito, però abbiamo adottato comportamenti e scelte politiche diverse. Abbiamo adottato comportamenti e scelte politiche diverse, per cui oggi Vincenzo sta con Bernocchi dentro la stessa organizzazione. All'epoca ci siamo ammazzati, volavano i cappi, vabbè, che portarono poi all'allontanamento dell'assemblea di Lettere dal movimento. C'aveva un senso questa cosa, no? C'aveva un senso, perché evidentemente c'era una parte del movimento che rappresentava quel momento di scontro come un passaggio, un processo. Erano tutti compagni che venivano dalle esperienze dei gruppi, questo lo ricordo ai poeti. I gruppi sono finiti prima, Potere Operaio, Lotta Continua, Avanguardia Operaia, dopo del 76, questa roba qui non c'era più. I comitati autonomi operai si sono rappresentati come istanza staliniana, leniniana, eccetera, quello che vi pare a voi, però erano altra cosa. Ricordo ancora l'autonomia operaia, con A maiuscola, O maiuscola, sta solo dentro i certificati penali, non sta, dico, dentro la realtà storica. E quindi non ci potevamo raccontare queste storie, appunto, no, ancora. Tutti i giovani, ci stanno gli studenti implumi che si lottavano contro la presenza prevaricante dei gruppi. Ci stava appunto una realtà più complicata, ci stava uno il fatto che nei 10 anni precedenti avevi assunto una capacità di stare all'interno dei territori, che era un certo tipo di capacità, valeva 10, era necessario 1000, però 10 c'era, oggi non c'è nemmanco 10. Perché manca un certo tipo di approccio, non solo perché non si fanno più le autoriduzioni, che in questo paese, questo territorio sono state fatte dal quarto trimestre del 1971 al 1986, abbiamo chiuso l'autoriduzione nel 1986, bene, e quindi il 77 sta in mezzo, le cose, la lotta per la casa, tutte queste belle storie qua. Quello che avviene oggi è che ci stanno una serie di momenti conflittuali che funzionano da foglia di figo per tutti gli altri, per cui ci stanno tutti gli studenti che non riescono a fare iniziativa all'interno dell'università, all'interno della realtà della scolastica, che però stanno tutti quanti dentro il movimento della lotta per la casa, che ovviamente poi non riescono a sostenere comunque, perché c'è una complessità che va osservata, insomma, no? Che è un dato di fatto. E quindi c'è appunto questo tipo di ritorno. Cioè, se i compagni mi dicono la nostra forza all'epoca era il rifiuto della delega, io sono contento e sono d'accordo. Però noi sappiamo che dalla metà degli anni 70, degli anni 80 a venire a noi, poi è stata fatta la scelta della delega, delle organizzazioni sindacali di base, come si chiamano, conflittuali, che però sono state una catastrofe. Non c'è un'avvertenza significativa portata avanti e risolta su questo terreno. Vi voglio ricordare, adesso sarà banale, però io queste banalità le ripeto fino alla fine, sul terreno della precarietà, qua a Roma c'è stata una sola avvertenza, non è stata gestita dal sindacalismo di base, ma dall'autonomia organizzata dei lavoratori, ed era Atesia, quella che oggi è Almaviva. Da quell'esperienza lì, 3.800 contrattualizzati nel 2006, si è arrivati nel 2007 con una conclusione ratificata dalle organizzazioni sindacali ufficiali, ma quella cosa lì ha comportato 20.000 trasformazioni di contratto a livello nazionale. È stata pagata con l'uscita dall'azienda dei 50 lavoratori del collettivo Atesia, perché non sono state firmate le deleghe ex articolo 410-411 liberatorie, su, con le quali invece i funzionari sindacali, CISL, eccetera, eccetera, hanno fatto i soldini. E quindi quella sede di lavoro è rimasta nelle mani dei lavoratori più arretrati, di centinaia e centinaia di lavoratori che non hanno fermato, che non hanno firmato le liberatorie, sono usciti al lavoro. Dentro quel posto di lavoro ci sono rimasti quelli più vergognosi, che in questi anni non sono stati capaci di portare avanti niente, che si sono identificati col padrone: io sono Almaviva, tu sei matto, sei allenato, fino ad arrivare alla situazione attuale per cui diventi un mendicante dei provvedimenti che stanno dentro il Job Act e fai il contratto di ricollocazione, cioè dai altri soldi a qualcun altro. Quindi solo queste considerazioni che escono e scaturiscono dal 1977, e quindi queste cose vanno riprese, appunto il rifiuto della delega, la capacità di stare dentro i territori e alimentare le conflittualità che stanno nei territori, rimettere insieme, ricollocare, ricondurre. Non si ricompone il fronte proletario con un appello all'amicizia, alla solidarietà, a stiamo tutti insieme. Si ricompone con obiettivi comuni, con proposte d'organizzazione comune. Quelle cose che stavano dentro quell'annualità, che sono continuate. Dal 77 non si è usciti con la morte nera, perché hanno rapito Moro, e perché hanno ammazzato Moro, e perché c'era l'esercito nelle piazze. I movimenti hanno continuato, li abbiamo rialimentati ancora negli anni 80 con fatica, passando tutti quanti attraverso una certa quota di carcere, ciascuno un po', vabbè. Quindi io credo 77, l'AMA, queste cose qua, fermo restando che eravamo tutti belli forti e più arti larghi di spalle. Vabbè, salute e auguri. Ringraziamo e diamo la parola a Jacopo. Se... Ah, no. Vito. C'è Vito prima. Se c'è qualche altro intervento, si venga a segnare qua. È semplice, un piccolo salto da 40 anni a 40 ore fa, da 40 anni fa a 40 ore fa. Che è successo 40 ore fa a Roma? Il Rialto occupato è stato praticamente, hanno incatenato il portone, non si entra più, hanno saldato le finestre e tutto quanto, e quindi noi abbiamo fatto un comunicato che mo vi leggo. Allora, sindaca Raggi, riapri l'alto, la via della cultura indipendente non si sgombera. Ieri un solerte gruppo di vigili urbani su indirizzo del terzo dipartimento ha posto i sigilli a Rialto Sant'Ambrogio, storica sede di numerose associazioni quali Associazione Rialto Occupato, Associazione Arci Roma, Circolo Gianni Bosio, Associazione Acqua Bene Comune Onlus, Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua, Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, Associazione Transform Italia, Forum Ambientalista, IICA, Istituto Internazionale Consumo Ambiente, Auste, l'Associazione Utenti Servizi Telefonici, ADP, Associazione Diritti Pedoni di Roma e del Lazio, Cammina Città, Federazione Italiana Diritti Pedoni e Salvaguardia dell'Ambiente, Associazione ATAC, ATAC Italia, Maschile Plurale, Archivio Rivista Critica Marxista. Queste sono le associazioni che firmano questo comunicato stampa. L'azione messa in campo senza alcun preavviso ha visto nei fatti la riacquisizione coatta dell'immobile, dando seguito alla nefasta delibera 140/2015 che vede mettere a rischio 750 spazi in tutto il territorio capitolino tra realtà sociali e culturali. Di fatto la riacquisizione del bene sancisce la chiusura delle attività di produzione culturale, incontro e costruzione di percorsi partecipati e democratici che da anni animano un luogo sottratto al degrado e punto di riferimento della cittadinanza anche per la inusuale collocazione nel centro storico urbano, in una città dove tali esperienze sono sempre più marginalizzate nelle periferie. L'assenza politica di questa giunta è oggi palese, dimenticando il valore delle tante iniziative intraprese da Rialto nella sua pluralità di realtà, disconoscendo quei valori e quei punti programmatici con i quali l'attuale giunta ha chiesto e ottenuto i voti dei cittadini romani, ovvero la valorizzazione dei percorsi dal basso partecipati, la valorizzazione dei processi culturali, fino all'immaginabile chiusura della sede centrale del Movimento per l'Acqua Pubblica, lotta che costituisce fondamento del partito politico della Giunta. Questo è il luogo dove si è avviata la costruzione di un laboratorio vivo e in movimento che prova a immaginare un modello sociale alternativo basato sul godimento dei beni comuni, del welfare locale attraverso la riappropriazione sociale e la gestione partecipata dei servizi pubblici e del patrimonio. Appare evidente che questi sono valori sociali e democratici che andrebbero non solo tutelati ma incentivati da chi ha l'onere di gestire la cosa pubblica. Si tratta di un laboratorio di democrazia ed è questo che l'amministrazione Raggi ha sgomberato. Perché non c'è attenuante davanti all'atto compiuto, non basta più trincerarsi dietro ci stiamo lavorando o la scelta la precedente giunta. L'accaduto è l'impoverimento cittadino e sociale che oggi Roma vive nella chiusura di Adrialto come nella chiusura di altri innumerevoli spazi con le loro relative esperienze, è colpa dell'inazione dell'attuale giunta di attuare azioni concrete e decise nell'imbarazzo tra dichiarazioni pubbliche che sostengono la partecipazione e l'attuazione di sgomberi e sfratti che ne chiudono i luoghi di sviluppo ed esercizio. Per comprendere appieno la torsione antidemocratica che sta subendo la città di Roma è utile ricapitolare quanto avvenuto. Una settimana fa, il 9 febbraio, all'unanimità l'Assemblea Capitolina approva una mozione per bloccare gli sgomberi. Quindi è evidente che non voleva questo sgombero, tantomeno la maggioranza. Stando alle dichiarazioni di alcuni assessori, anche la Giunta non voleva questo sgombero. Infatti oggi si appresta ad approvare una moratoria sugli sgomberi. Ma lo sgombero c'è stato e nessuno ha fatto nulla per fermarlo. Delle due l'una, o dietro alle dichiarazioni c'è nulla, o in questa città, che è la capitale del paese, non esiste più la democrazia. Quello che si rende evidente è che ancora una volta questa giunta e questa maggioranza 5 Stelle hanno dimostrato la loro totale complicità con azioni e iniziative che puntano alla mercificazione dei beni comuni e alla messa a valore del patrimonio pubblico e della città intera. Lo sgombero del Rialto purtroppo non appare isolato, ma si inserisce in una serie di analoghi provvedimenti che stanno colpendo altri spazi sociali a Roma. Se è ormai sempre più chiaro che si scrive acqua, si legge democrazia, bisogna adesso affermare che la democrazia non si sgombera. Chiediamo a tutti di scegliere da che parte stare. Chiediamo alla maggioranza, alla Giunta e a tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, sia nazionali che locali, per una volta di non restare a guardare nascondendosi dietro alle decisioni di altri, ma di mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché le realtà sgomberate dal Rialto possano riprendere al più presto possesso dello stabile. Grazie a tutti. Jacopo? Si prepara dopo Cristina. Grazie. Ciao a tutti, io sono Jacopo, un compagno di battaglia comunista e grazie ai compagni di Gage per aver organizzato questa assemblea, grazie di potermi far parlare. Magari dopo vi mangerete le mani, però ormai il microfono ce l'ho in mano, quindi ne approfitto. Allora, diciamo che i temi sono tanti. Secondo me è importante quello che è emerso solo dall'intervento di Giorgio, mi sono perso il primo intervento, comunque quello che secondo me è mancato è un po' collegare l'evento che stiamo qui, diciamo, a commemorare con il presente e il futuro del movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, perché per me, insomma, il riferimento è sempre quello. forse magari per qualcun altro la prospettiva non è più quella rivoluzionaria e comunista, però secondo me sì, a parole era anche quella del movimento di quegli anni. Quindi secondo me bisogna cercare di contestualizzare l'evento storico e politico e ricollegarlo al presente, anche perché a mio avviso di miti e di eroi noi non abbiamo bisogno, anzi dovremmo avere la capacità di inquadrare anche l'operaismo e tutti i vari, le varie esperienze che l'operaismo ha dato all'interno di una critica, almeno una critica per cercare di conoscere a fondo le basi teoriche e politiche di quei movimenti, che alla luce anche di quelle che sono state le ultime vicende economiche e politiche degli ultimi anni, a mio avviso hanno dimostrato un po' degli approcci quantomeno azzardati e sbagliati. Per cui secondo me non bisogna mitizzare quel periodo, bisogna cercare di contestualizzarlo, capire perché certe pratiche erano valide allora ma non lo possono essere oggi. Allora comunque c'era ancora una fase di ascesa economica e quindi c'erano ancora delle briciole da elargire che attraverso le lotte potevano essere conquistate. Ma oggi quegli spazi di mediazione sono finiti, tant'è che anche la socialdemocrazia si è vista sbattere la porta in faccia dal Parlamento e quindi è arrivato il bipolarismo. La destra e la sinistra comunque del capitale sono, non che la socialdemocrazia, che non è l'ala destra del movimento operaio, ma è l'ala sinistra del movimento borghese, non lo fosse. Però è importante capire la fase di oggi per cercare di essere all'altezza dei tempi. Purtroppo il comunicato che ho sentito adesso non mi sembra all'altezza dei tempi, perché andare a richiedere giustizia e libertà e bisogni a chi ogni giorno ci dà un lavoro precario, se ce lo dà, o un lavoro nero, o ci taglia l'università, ovvero il salario indiretto e differito, le pensioni, noi non possiamo rivendicare nulla ai servi dei padroni, che sia il PD, che sia Rifondazione Comunista, che sia Pinco Pallino. Noi dobbiamo costruire la nostra autonomia, ma la nostra indipendenza politica, che è l'indipendenza politica non degli studenti, non dei popoli del terzo mondo, non dei migranti, del proletariato. Noi ci dobbiamo riappropriare del nostro ABC politico, delle nostre categorie. Il padronato ci ha cancellato la memoria storica e noi ce ne dobbiamo riappropriare. È difficile, è faticoso, ma la nostra incapacità di parlare del proletariato è frutto di una sconfitta dietro l'altra che ha portato nel movimento, nelle avanguardie, un arretramento politico che si è attestato oggi anche su, perdonami se critico il tuo intervento, ma il soggetto oggi non può essere lo studente è una figura interclassista, ci sono gli studenti figli dei padroni e ci sono gli studenti figli operai, il figlio dell'operaio deve andare a lavorare, io l'università non me la sono potuta permettere perché non c'avevo i soldi, quindi di che stiamo a parlare? Gli studenti sono una categoria astratta, l'università si cala all'interno di una società che è molto più complessa e non può essere neanch'essa astratta, ma va studiata nei suoi legami con la società e quindi sulle necessità del capitale di sfornare una forza lavoro quando serve, specializzata più o meno, comunque a basso costo, perché comunque i poli dell'eccellenza non sono le università private. Scusatemi, abbassate un pochino la voce, se no magari chi mi vuole sentire, capisco che possa essere un intervento magari poco apprezzato, però magari se mi date l'opportunità di finirlo. E detto questo, secondo me bisogna fare bagaglio delle esperienze passate per avere una prospettiva per il futuro. Quindi critica del passato è fondamentale. E la prospettiva, comunque, visto che la guerra, la precarietà e la crisi di un sistema che si dimostra giorno dopo giorno inaccettabile, è necessaria un'alternativa che a mio avviso è ancora la rivoluzione per un mondo senza sfruttamento né confini. Grazie. Grazie Cristina. Allora, io un intervento un po' difficile, diciamo, dalla generazione che sul 77, essendo nata io nel 71, c'è un po' cresciuta, no? Nel mito del 77, o comunque nel mito degli anni 70, le rivolte, le lotte, tante piazze piene e via dicendo. Prende molto le generazioni che il 77 hanno fatto, io sono un po' la generazione di mezzo. E poi penso che il nuovo millennio invece abbia portato, abbiamo aperto il nuovo millennio, il 2000 con Genova nel 2001, dove anche all'interno delle piazze c'è stato uno scontro forte tra, diciamo così, una massa di persone che sono scese in piazza, le compagne e compagni di gente eccetera, che hanno spiazzato gli stessi movimenti. Il 15 ottobre del 2011 è avvenuta la stessa cosa, no? Ci sono stati scontri nel 2001, scontri nel 2011, eppure fatti da compagni e compagni, da proletari, da gente, da studenti, non lo so, che hanno spiazzato i movimenti, hanno spiazzato addirittura tante compagne e compagni che sono ricorse anche alla polizia, che sono ricorsi a comunicati diffamatori e via dicendo. Quindi diciamo che per me non c'è una, cioè, nel senso che qual è la riflessione oggi degli scontri che si fanno in piazza, qual è il concetto di violenza, chi è permesso o no la ribellione, l'autonomia, appunto si è parlato tanto dell'autonomia, no? Che l'autonomia operaia la scrivevano sui giornali, però c'è un'autonomia dell'auto-organizzazione, ecco, questo è il mio... diciamo a che punto siamo oggi nell'autonomia di piazza e nella poter anche tra di noi scendere in piazza ognuno e portare avanti delle pratiche che poi invece molte volte hanno portato dei forti contrasti. Carlo. Io volevo dire pochissime cose. La prima è una riflessione. Il 77, questo giorno ha segnato, come abbiamo detto prima, un limite fondamentale di divisioni e soprattutto la scoperta, per chi non ancora si illudeva, che esistessero una sinistra diversa. No, esisteva da una parte chi discuteva tutti i giorni, perché la bellezza del 77 erano le assemblee infinite, le assemblee anche con l'ironia, la scoperta di tutte le realtà che sono uscite fuori, la realtà gay, la realtà degli emarginati, la realtà, soprattutto la realtà di chi era non garantito, perché il movimento già del 77 era il movimento dei non garantiti, ovvero già si intravedeva quello che è stato il percorso che ci ha portato ad oggi, dove il non garantito è diventato precariato o disoccupato o senza lavoro e senza speranze. Il 77 è stato ed è un primo momento importante al di fuori dei partiti e partitini, perché voglio dire altre organizzazioni si erano sciolte, in cui tutti i compagni e le compagne hanno cercato di dare una risposta a chi voleva già allora militarizzare e precarizzare e comandare chi si ribellava. Il percorso è stato questo, lo scontro ha portato a questo, l'occupazione dell'università è stata un'occupazione militare, perché voglio dire l'AMA non è venuto come dicono, e soprattutto anche una piccola riflessione sulla documentario che c'è stato l'altra sera, io ho detto dopo 40 anni quelli del PC continuano a essere buciardi, perché voglio dire Ughetto, che era uno dei responsabili del servizio d'ordine del PC, che conoscevamo tutti perché c'erano degli occhiali così spessi, e quello del PC che era quel giorno accompagnava l'AMA e gli faceva compagnia così, l'altro diceva Ughetto non esiste. Allora mi sono fatto una riflessione, dopo 40 anni ancora continuiamo a dire menzogne. Le menzogne sono perché purtroppo il 77 e parte e anche gli anni dopo sono stati non abbiamo vinto, e quindi la storia la scrivono i vincitori, perché io dico sempre quegli anni sono stati anni meravigliosi di discussione, di lotte e di conquiste. Oggi li chiamano e li seppelliscono come anni di piombo. Allora io dico ai giovani e a noi non siamo quelli degli anni di piombo, siamo quelli della rivolta, siamo quelli che ancora oggi continuiamo a lottare, siamo quelli che siamo a fianco dei curdi, degli immigrati, degli ultimi, siamo a fianco di chi vuole essere dimenticato. Noi siamo contro la deriva dell'ignoranza, siamo per la cultura, siamo per la solidarietà e siamo per tutti i valori che abbiamo creduto allora, abbiamo cercato di mantenere e manteniamo ancora oggi. Però ecco, la cosa importante è questa, dico ai giovani: dovete discutere, confrontarvi con la mente libera, con le vostre discussioni e con i vostri errori, perché io credo che non debbo venire da voi a dirvi quello che dovete fare, dovete saperlo voi e costruirvi voi la vostra strada. Però credo che in questo momento dei segnali li comincio a rivedere: la solidarietà internazionale, la difesa dei migranti e degli ultimi, la crisi che porta sempre più povertà. Dobbiamo organizzarci e rispondere. Io credo che fino che la forza e la salute ce lo dà, noi ci saremo tutti, e i compagni e le compagne che hanno mantenuto quei valori. Quindi io vi dico a tutti, vi ringrazio per questa non ricorrenza, per questo memoria, perché io dico sempre, chi non c'ha memoria non c'ha futuro. Quindi per ricordare questo giorno come momento di partenza e di riflessione per continuare a crescere, a confrontarci ed andare avanti. Grazie. Non abbiamo altri interventi scritti. Cerchiamo di tra poco. Allora, non so chi sono gli autonomi qui in mezzo, deduco gli interventi, i primi interventi. E questo però crea un problema, perché non so chi risponderà. Comunque, Rocco, lettura politica del 77, lettura politica del 77 non nel 2017, ma la lettura politica che avete fatto nel 78 del 77. E dato che siete comunisti, siete stati comunisti, se vi siete mai posti il dilemma della presa del potere, oppure il vostro obiettivo era quello di costruire realtà e culture altre ma comunque subalterne? No, purtroppo sociologicamente si è andati avanti. Lo conosco, sta nel numero 6 dei Volsci, quindi lo conosco. Quindi queste sono le domande. Qualcuno vuole rispondere? Non posso rispondere. Voglio dire, io come altro, ma questo argomento l'ho affrontato anche ieri sera, perché i compagni dell'OPR hanno preparato una loro storia e quindi loro sono all'interno di questa visione, loro come altri ancora, pieno rispetto ovviamente per tutti coloro i quali nella concezione della rivolta o della rivoluzione, a secondo dei tempi, dei momenti, insomma, eccetera, ammettono questa equazione della necessità di avere un partito che ha la teoria e un'organizzazione di massa che fa le lotte. Noi questa divisione non l'abbiamo utilizzata, e quindi libertà di pensiero per chi pensa che vive quella visione, mentre noi abbiamo sempre sostenuto e abbiamo praticato che non c'è divisione tra la politica, l'economia, il lavoro, eccetera, e quindi ricomponevamo sia nelle cose che facevamo sia nella vicenda umana e civile quel pensiero marxista che dice prassi, teoria, prassi. Quindi non c'è un partito che ha la teoria, ma è la prassi, teoria prassi, perché non ci sarebbe arrivato neanche Marx se non avesse visto qual era la contraddizione nel momento in cui viveva, quella della Comune di Parigi, su cui ha molto riflettuto ovviamente per poter arrivare a scrivere Il Capitale. Quindi io non voglio appellarmi ovviamente a quei sommi, ma l'esperienza almeno che ci ha governato e che quantomeno continua a governarci, per questo non abbiamo costruito un partito, un'organizzazione a canottina, anche perché abbiamo interiorizzato molto prima della caduta dei socialisti o dell'URSS eccetera, che quelle esperienze in tutto il mondo, tranne forse qualche differenza insomma eccetera, non ammettono l'estinzione dello Stato. Cioè il percorso è che il partito, ovvero l'avanguardia, diventa Stato, e diventando Stato ripercorre gli stessi errori che sono propri dello Stato borghese capitalistico. Quindi ergo l'auto-organizzazione, l'autodifesa, l'autogestione sono i principi che ci hanno governato, quindi non sono principi subalterni, sono gli stessi principi che in un momento topico come questo, che c'è guerra e grandi migrazioni, cioè c'è una frattura all'interno del campo interimperialistico, vede un popolo attraverso la composizione tra avanguardia e capacità di autogestirsi, costruire in questa frattura, come sempre è avvenuto, se non ci fosse stata la frattura della prima guerra mondiale o quella della seconda guerra mondiale, non sarebbe esistito né l'URSS sovietista né la Cina di Mao, la Cina delle comuni. In questo contesto l'esperienza presente, l'esperienza indicativa, l'esperienza sollecitativa è quella della Rojava. Nella Rojava, utilizzando ovviamente la rottura persistente, un popolo si è autovalorizzato costruendo la propria autogestione, la propria capacità di convivere, e non delegando ovviamente né a un'istituzione partitica né ad una istituzione economica. Di queste esperienze ce ne sono quantità assoluta ovviamente, che sono state in grado durante il partigianesimo, durante dal momento del 25 luglio del 1943 fino a tutto il 45 eccetera, ci sono state le repubbliche liberate, che non è che sono state a pensare, e i partiti c'erano, erano tutti dentro il CLN, di poter mettere dentro le repubbliche liberate un pezzo del Partito Comunista, un pezzo del Partito d'Azione, un pezzo di quello. Lì c'erano la gente che si è detta: io comincio a questo momento ad autogestirmi, ad organizzarmi. Io ho vissuto più in particolare, per esempio, la prima repubblica, prima ancora quella dell'Ossola, quella della Repubblica di Caulonia. Chiunque volesse prendere i prodromi di quello che poi c'è una parzialità di vittoria e poi c'è la sconfitta generale, perché c'è l'accordo tra i partiti del CLN, quindi l'abbandono di quello che è stato un processo di guerra civile rivoluzionaria anche eccetera, trova in quel 26 luglio 8 settembre la Repubblica di Caulonia che vive ovviamente eccetera, e che viene uccisa dal Partito Comunista, giusto per dire questi ricordi. Allora, il 77 non è arrivato così all'improvviso come una grandine. Prima del 77, diceva Graziella, ci sono stati gli altri anni. Il giorno di Lama, all'Università di Roma, il servizio d'ordine della CGIL era abbastanza numeroso e forte. Chi dominava in quel servizio d'ordine erano i lavoratori della SIP. Perché i lavoratori della SIP? Perché il 77 non arriva improvvisamente, ma agli anni precedenti. Allora, la SIP sono i servizi telefonici. La telefonia in Italia era monopolio, maggioranza del capitale dello Stato, minoranza dei privati. Bene, però succedeva questo, c'era un meccanismo perverso. I 100.000 lavoratori della SIP, quando prima erano delle 5 concessionarie, che succedeva? Quando facevano il rinnovo del contratto collettivo nazionale, subito dopo 15 giorni, 20 giorni, avveniva l'aumento delle tariffe per 20 milioni di utenti. E questa era una storia che si ripeteva ogni 2 anni. Bene. Allora quella AO che si diceva prima, pensò a che cosa? All'autoriduzione delle bollette telefoniche. Peppe l'ha ricordata, ha pronunciato la parola autoriduzione. Come finì questa autoriduzione, che nacque nel 1975, si sviluppò e poi a un certo momento andò tanto per finire? Quando noi vediamo l'AMA all'università e vediamo i lavoratori della SIP in permesso sindacale, vediamo anche altri operai della SIP che hanno preso il giorno di ferie e stanno qui all'università, bene, pensiamo, che è successo? È successo questo, che la SIP staccava i telefoni agli autoriduttori. Noi ci avevamo tutto uno strumento organizzativo di assistenza legale e quindi si facevano le cause. Però il telefono era staccato, allora avevamo i pretori d'assalto che obbligavano la SIP a riattaccare il telefono. Però nel campo giudiziario le cause proseguivano. Ebbene, noi che impugnavamo questi distacchi dalla SIP facevamo delle cause. In una di queste cause furono chiamate a testimoniare Lama, Carniti e Benvenuti. Perché Lama, Carniti e Benvenuti? Perché la CGIL, la CISL e la UIL, cioè le tre confederazioni, si misero a raccogliere gli autoriduttori. Praticamente fu la manovra distorsiva, in modo che ci toglievano gli autoriduttori alla nostra organizzazione per pigliarsela loro. Per fare che cosa? Per fare l'accordo con la SIP. E quindi si mettevano d'accordo e hanno stroncato l'operazione di autoriduzione, che fu sviluppata su tutta l'Italia, non è che fu sviluppata solo qui a Roma. Quindi Lama, Carniti e Benvenuti erano tutte e tre insieme, e se noi troviamo soltanto Lama, perché lui faceva il coraggioso, lui venne come un provocatore qui all'università, e quindi come provocatore e come uno che cercava di togliere lo spazio agli utenti, togliere lo spazio ai consumatori, togliere lo spazio ai lavoratori, era uno che si meritava qualche lezione, e la ebbe qui la lezione Lama. Bene, se non ci sono altri interventi chiuderei qui l'iniziativa, ricordando che diciamo, questa era una prima iniziativa, e anche le domande e i nodi che sono stati sollevati questa sera noi tenteremo di andarli a approfondire con tutti quelli che sono intervenuti e che c'erano questa sera in quest'aula. Rinnovo l'appello a seguirci, anche perché apriremo una pagina internet dove proviamo a raccogliere tutte queste testimonianze, anche i documenti che spero ci invierete, e anche soprattutto a porre delle questioni che sono utili a ricostruire quello che è successo in quegli anni, prima e dopo il 77 e durante quell'esplosione, e ci aiutano insomma a ragionare anche sull'oggi. Vi ringrazio e vi ricordo che una prossima iniziativa sarà giovedì prossimo, dove si presenterà il premio di laurea della tesi sul russo a Bologna con i compagni di Bologna, e si terrà al Tresserlande alle ore 17 giovedì prossimo con i compagni di Bologna, che ci racconteranno come stanno portando avanti questa iniziativa dell'università, e che anche lì insomma si faranno il ricordo di quella giornata e anche delle iniziative a tema. Ringrazio tutti e tutte e a presto.